elettroni nello spazio. Bentornati alla 18esima puntata di ma di che cosa? Dell'intervallo, nell'intermezzo informatico, tecnologico, culturale di Radio Dadurto. Tecnologie libere, informatica, nuove tecnologie. Non so, io sono sempre stupito perché tu ogni tanto lo dici bene, ogni tanto lo dici male. Ogni tanto te lo scrivi, ogni tanto no. Ma se te lo scrivi, lo ripeti, poi insomma. Cialtroni nello spazio, la trasmissione di informatica libera. Nuove tecnologie, approfondimenti digitali, tecnologie, licenze, varie cose. Libera la mente, liberiamoci di Marco GH. Salutiamo anche Alessandro al mixer. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. E a Carletto in regia. Carletto alla regia del sito web radio.circolab.net. Esatto. Abbiamo un sacco di roba di cui parlarvi, ma Alessandro sicuramente ci farà la scaletta. Quello che la sa più lunga di tutte. Allora, prima della scaletta ricordiamo il sito che è spazio.circolab.net e la mail che è radio@circolab.net o @numerica, è uguale. Vabbè, allora iniziamo dal Circolab. Cosa succede? Finalmente. Allora sì, c'è una notizia di servizio per quanto riguarda il Circolab. Non è una notizia di servizio, è la notizia del giorno. Esatto, perché inizia il corso di Linux base al Circolab il 4 di aprile, quindi la settimana prossima praticamente. Sì, quasi. Non me lo ricordare così. 10 giorni mancano. Esatto. Oggi sì. Inizia la primavera e col primo sul di aprile sito trovate le informazioni per iscrivervi. Se invece non avete internet o quant'altro, potete contattarci via mail o altri. Se non avete internet o potete contattarci via mail, è fantastico. Oppure fantastico. Passate la domenica al Circolab dopo le 5. I corsi via si Fratelli Bandiera è la sede del Circolab, mentre i corsi si terranno il mercoledì sera presso la camera del lavoro Folonari. Vabbè, la conoscono tutti penso. Vabbè, via Fratelli Folonari. Il costo sarà di 80 euro per 8 lezioni che vanno a finanziare il progetto del Circolab. Sì, esatto, è un non è un corso privato, non è un corso che si devono, insomma, pagare i docenti. Gli spazi. Esatto, serve diciamo a pagare lo spazio di via Fratelli Bandiera. Beh, a parte con l'80% va appunto alle spese dei docenti. No. Da informazioni false e tendenziose. Ecco, no, questo per chi volesse iscriversi. Insomma, raccoglieremo poi in questa ultima settimana un po' tutte le iscrizioni, eccetera. Potremmo fare che nella nostra trasmissione ogni settimana sentiamo il docente del giorno e ci spiega un summit di 2 minuti del corso che si va a tenere la sera stessa. Comunque, vabbè, questa è un'idea che mi è venuta adesso, non abbiamo discusso. Andiamo avanti con la scaletta. Allora, gli sguardi di miei di Alessandro erano abbastanza espliciti. Torniamo alla scaletta. Allora, ci sarà qualche notizia dal mondo, dalla Francia, dall'India. Un po' di novità per quanto riguarda Microsoft e i suoi progetti e i suoi problemi e i suoi problemi prossimi futuri. Qualche novità anche per l'ormai vituperato Italia.it, che è ormai lo sberleffo della settimana. E potrebbe scriverci un libro su qualche notizia sui brevetti e sui medicinali. Ne abbiamo parlato un po' la settimana scorsa, abbiamo trovato una notizia carina. Esatto. Cioè, una capacità di tenere il microfono lontano dalla tua bocca che è impressionante, Marco. Cioè, tu dovresti riascoltarti. Zampa, hai un'altra capacità. Insomma, questa è la scaletta. Il primo punto mi sembra che l'abbiamo già affrontato, ovvero i corsi del Circolab. Ormai abbiamo detto tutto, oltre che, se volete, ripetiamo www.circolab.net tutte le informazioni. Ah no, esatto, volevo semplicemente dire che il corso è più attaccato. Ok. Volevo semplicemente dire che il corso è indirizzato verso persone che non sanno cos'è Linux, quasi. Che non sanno quasi cos'è Linux. Infatti è un corso base, si andrà da come installare un sistema Linux sul proprio computer, come utilizzarlo con i programmi più comuni per connettersi a internet, per fare della videoscrittura, per fare le cose che normalmente una persona fa con Linux, però con Windows, però farle diciamo con Linux e vedere che non c'è assolutamente nulla di complicato, anzi è anche più bello e più divertente. Quindi insomma anche un modo per affrontare le proprie paure, viene da dire in maniera filosofica. Esorcizzare, esatto, la propria paura verso il nuovo. E poi le parti invece che magari sono complicate, vederle insieme, insomma, che non è proprio tutto così rosa. Intanto c'è Marco GH ogni domenica sera al circolo, sì, le parti complicate, lo sa. Andate là e glielo chiedete, insomma. Beh, iniziamo da Microsoft, visto che stavamo parlando di Linux, andiamo a parlare anche di quello che succede in casa Redmond. Andiamo un po', allora, innanzitutto sono due le notizie di cui andiamo a occuparci quest'oggi. Live One Care è il fantastico, bellissimo, favoloso antivirus di Microsoft. Al CeBIT di Hannover, città tedesca, credo, sì? Sì? Perché mi guardi così male? Ah, ok. Non è un cattivo prodotto, dice il responsabile dei prodotti di sicurezza per l'Europa, Arno Edelman. E considerando che di solito quando dicono qualcosa relativamente ai loro prodotti, quelli di Microsoft dicono che è la svolta epocale, il prodotto più interessante che sia mai uscito sul mercato e cose di questo tipo, insomma, possiamo già capire di che cosa si tratta. Allora, si tratta di un antivirus che ha avuto non pochi problemi. Innanzitutto il problema della gestione della corrispondenza, per esempio il My Server di Exchange 2000-2003 non sono compatibili, quindi hanno creato qualche problema, innanzitutto perché identificava come infette le webmail di Google, cioè non quelle che contenevano il virus, ma tutte le webmail di Google. È vero che Google e Microsoft sono un po', si stanno un po' antipatici, però mi sembra come protezione, come sembra un po' eccessivo. Sappiamo benissimo che però dalla visione Microsoft, Google è un virus da estirpare. E di questo ci torneremo tra poco. La cosa più interessante è che non è in grado di proteggere gli utenti di Windows Vista, quindi insomma, anche questo è un dettaglio non irrilevante. E l'altro, forse quello più interessante, voi avevate delle email sanissime, le avete ricevute tramite Outlook, quindi non un pericoloso prodotto di terze parti nell'ottica Microsoft, ma il prodotto di casa Microsoft che viene utilizzato per guardare le email. Ecco, queste email vengono improvvisamente spostate in quarantena. Il dettaglio tecnico di come funziona è un po' complicato. Comunque ci sono delle cose insomma, non sono più accessibili e quindi non possono essere più lette e visualizzate se non mediante tramini o recuperi dalla quarantena. Ma la cosa, detto in parole povere, come segnala anche attivissimo Paolo Attivissimo nel suo blog seguitissimo, il Disinformatico, se ricevete con Outlook un'email infetto, OneCare si accorge che il file contenente tutti i messaggi contiene del codice virale e quindi va messo in quarantena, come si fa con qualsiasi altro file infetto. Il problema è che sposta in quarantena tutta la vostra posta, quindi insomma divertitevi poi a recuperarla. C'è da dire, esatto, un aggiornamento che Microsoft ha rilasciato, un aggiornamento di OneCare per risolvere almeno questa di magagna, che include addirittura le istruzioni per ripristinare i file di posta messi erroneamente in quarantena, quindi almeno sotto questo punto di vista la posta sana dovrebbe essere anche salva. Beh, ricordiamo comunque che ci sono un sacco di software per antivirus che sono problema, gratuiti, che sono addirittura liberi in alcuni casi, come il WinClamD, o alcuni semplicemente liberi per uso personale, per cui insomma dover andare a mettere su l'ennesimo software Microsoft sul vostro computer, insomma, ci penserei un attimino. È vero, dimenticavo che questo è un programma che costa 50 euro e mentre invece... Ma non funziona, quindi... non funziona, vabbè, 50 euro... Sono dei piccoli dettagli che un programma funzioni o no, insomma, è targato Microsoft, quindi va bene, è normale. È normale. Sempre per quanto riguarda Microsoft, invece parliamo di Microsoft versus Google, ovvero si parla poi questi giorni di una nuova iniziativa di Microsoft per spingere l'utilizzo del proprio motore di ricerca, ovvero Live Search. L'idea è quella di pagare per utilizzare questo motore di ricerca. Ovviamente non pagheranno tutti, ma hanno deciso, insomma, un tot di aziende, per il momento una trentina, che entreranno in questo programma sperimentale per circa un anno, e verranno pagate queste aziende per varie opzioni, per esempio per fare dei corsi ai propri lavoratori su come utilizzare al meglio il Live Search, cioè la stessa cosa che si potrebbe fare guardando un qualsiasi documento su come fare una ricerca su internet, però vabbè, questo è uno dei metodi. Oppure insegnare ai propri dipendenti di queste aziende la rimozione delle toolbar esistenti di altri motori di ricerca. Quindi, per esempio, molti si saranno accorti che esistono delle toolbar che permettono di ricercare direttamente in Google senza digitare www.google.com, ma semplicemente in una parte del vostro browser in alto, con scrittina Google o qualcosa del genere, voi digitate un termine e automaticamente viene ricercato in Google. Ecco, se voi insegnate ai lavoratori, cioè quindi se queste 30 aziende insegneranno ai propri lavoratori come utilizzare, come rimuovere questa toolbar, si prenderanno dei soldi, e poi anche come configurare la pagina di Live Search come pagina principale del browser e cose del genere. Ci saranno dei crediti che verranno accumulati dalle diverse società, e ovviamente non saranno convertiti in dollari, ma saranno convertiti in buoni sconto per software Microsoft. Esatto, sembra una barzelletta. Ennesimo abuso della posizione di monopolio o quant'altro. Ma vabbè, tanto noi l'ho presa, questa notizia la prendiamo con un sorriso. Io l'ho provato, live.com. C'è non una non trovo assolutamente niente, è una chiavica. Davvero. Provatelo anche voi, ci scappate via dopo 4 secondi. La cosa più divertente è che persino gli autori degli articoli, insomma, hanno segnalato che l'azienda Microsoft sottolinea che non terrà in alcun modo traccia del tipo di ricerche effettuate. Quindi, insomma, già il fatto che bisogna sottolineare cioè una nota di questo tipo, fa pensare che anche la buona fede, insomma, di Microsoft non sia al mille per mille, mettiamola così. Beh, Microsoft da sempre non ha mai avuto una grande immagine per quanto appunto riguarda le problematiche di privacy e quant'altro, per cui probabilmente cercano in qualche modo di recuperare con dei bei paroloni quelli che per anni non hanno mai fatto. Vabbè, tra i 2 e i 10 dollari per ogni PC utilizzato nel programma, 25.000 dollari per l'iscrizione all'iniziativa sono quanto si beccheranno queste aziende per insegnare ai loro dipendenti a usare Microsoft Live Search. Beh, quindi dobbiamo dare un'altra notizia. Tra poco al circolo vi iniziamo il corso di Microsoft Live Search. È un motore di ricerca bellissimo e super funzionale. E a proposito di motori di ricerca, provate a digitare sul vostro motore di ricerca a caso, ad esempio Google, la parola merda. Che cosa salta fuori? Non lo so, prova. Questa non era in scaletta, puoi digitare. Come non era in scaletta? Io almeno non lo sapevo. Digita, scrivi merda, invio. E il primo link è italia.it. Divertente. Infatti un po' di gente ha deciso di linkare la parola merda al sito, al nostro merda. Si è schiantato Internet Explorer. Vabbè, dai, succede. Ah, la morte di nuovo. Vabbè, niente. E no, perché c'è una parolaccia, allora Internet Explorer ha deciso di schiantarsi. Che bello avere Internet Explorer in radio. Vabbè. Basta, Marco. E niente, allora, appunto, un po' di gente ha deciso di linkare la parola merda ai riferimenti al sito italia.it, appunto stufi degli errori, imprecisioni e quant'altro che si trovano su questo sito. Segnaliamo un sito veramente bello che analizza un sacco di errori presenti sul portale del turismo italiano www.italia.it, che è scandaloitaliano.wordpress.com.org. Temo di non avere il link .com. Infatti ho scritto il link sbagliato, mi era venuto il dubbio. Dove appunto sta catalogando gli errori, le imprecisioni, le dimenticanze di questo che sono state fatte nell'inserimento dei dati del nostro paese sul portale nazionale, quelli di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane. Ricordiamo che Home e Castelmella erano segnalati giusti l'indirizzo del municipio. Beh, ma in realtà a Home non citavano il maglio medievale che è ancora in funzione oggi, che, sì, insomma, che picchiano sulla testa di Marco ogni mattina. No, vabbè, è bellissimo, è un maglio, funziona con l'acqua e fa cin cin cin. Dai, bando alle ciance di Marco, qual è il brano musicale che ci vai a presentare oggi, Alessandro? Oggi andiamo con reggae, si chiamano T-Roots, sono francesi, l'album si chiama Positive Vibes e il brano è Qu'est-ce qui se passe, non so se si legge esattamente così perché è francese, però vediamo. Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Des millions de personnes dans la masse ne trouvent pas leur place, ne trouvent pas leur place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Tout chef d'État confondu pour le peuple devient une menace. Il n'a pas sa place. Pourquoi, comment sommes-nous arrivés là? Je ne l'explique pas, non, je ne comprends pas. Et les puissants restent impuissants devant ce fléau qu'est le pouvoir de l'argent. Un système mis en place qui menace notre race humanitaire ou monétaire. Ensemble n'ont pas leur place. L'argent appelle l'argent. Les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres gens. Les politiques et leurs gouvernements nous promettent des choses une fois élus ne visent que l'armement. Plus t'as de cash, plus t'as de thunes, plus t'as de flouze, plus t'as de pèse, plus tu pèses et plus tu pèses. Plus t'as de cash, plus t'as de thunes, plus t'as de flouze, plus t'as de pèse, plus tu pèses et plus tu pèses. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et plus tu pèses. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Des millions de personnes dans la masse ne trouvent pas leur place, ne trouvent pas leur place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Tout chef d'État confondu pour le peuple devient une menace. Il n'a pas sa place. Où va le monde? Nos citoyens croulent sous les bombes, victimes d'armements de guerre, victimes de bombardements nucléaires, victimes de manœuvres militaires en Afrique. Boum boum boum éclat. En Asie. Boum boum boum éclat. En Amérique, boum boum boum éclate. En Europe aussi, boum boum boum éclate. En Océanie, sur les cinq continents, boum boum boum éclate. Nous sommes nos pires ennemis. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Des millions de personnes dans la masse ne trouvent pas leur place, ne trouve pas leur place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Tout chef d'État confondu pour le peuple devient une menace. Il n'a pas sa place. Pourquoi faire la guerre quand on veut la paix? Pourquoi se battre quand on peut parler? Pourquoi vivre la guerre quand on connaît la paix? Pourquoi haïr quand on sait aimer? Pourquoi faire la guerre quand on veut la paix? Pourquoi se battre quand on peut parler? Pourquoi vivre la guerre quand on connaît la paix? Pourquoi haïr quand on sait aimer? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Des millions de personnes dans la masse ne trouvent pas leur place, ne trouvent pas leur place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? chef d'État confondu pour le peuple devient une menace. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Des millions de personnes dans la masse ne trouvent pas leur place. Ne trouvent pas leur place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Qu'est-ce qui se passe? Tout chef d'État confondu pour le peuple devient une menace. Il n'a pas sa place. Restiamo in Francia, la notizia che arriva è veramente inquietante. Una legge che è uscita qualche giorno fa, che in realtà è passata anche abbastanza sotto silenzio da parte del Consiglio Costituzionale francese, che ha approvato una legge che criminalizza fondamentalmente il media attivismo. Infatti, con la scusa della privacy, si può, diciamo così, condannare a multe e anche fino a 5 anni di prigione chiunque filmi o trasmetta atti di violenza di persone contro altre persone, e quindi per esempio anche persone che picchiano dei giornalisti, o comunque violenza che viene commessa dalla polizia, o possono venire condannati anche i gestori di siti web che pubblichino queste notizie. E la denuncia è arrivata da un gruppo per le libertà civili in Francia. Tra l'altro, la cosa triste è che la scelta del Consiglio è stata di pubblicare questa decisione e di approvare questa legge proprio in una data che è quella del 3 marzo, che 16 anni fa aveva portato, era stato il giorno in cui era stato brutalmente picchiato a Los Angeles Rodney King, brutalmente picchiato dalla polizia, e proprio colui che aveva filmato queste scene di violenza nei confronti di questo motociclista, Rodney King, potrebbe oggi essere quindi condannato con una legge di questo tipo. In Francia, ovviamente. In Francia, ovviamente, però sai, in internet le cose che vengono pubblicate, insomma. E beh, è vero, effettivamente. È una cosa un po', anche una cosa un po' ambigua, perché magari il fatto che si scriva per esempio in lingua francese, secondo alcuni stati, per esempio in Italia, anche se il sito è fisicamente detenuto in un è fisicamente locato in un altro stato, se il contenuto è in lingua italiana è un po' ambiguo se la giurisdizione. Basti pensare per esempio a quello che è successo da Indymedia, che aveva dei server nel Regno Unito e che si è ritrovata con il sequestro del server per una fotografia che era un fotomontaggio che pubblicava Ratzinger. Quindi insomma anche questo è una legge che potrebbe colpire non solo in Francia. Le multe sono pesantissime, fino a 75.000 euro, e si parla di fino a 5 anni di prigione, e quindi con pene di questo tipo commettere un crimine può essere più conveniente che non filmarlo e poi pubblicare questa notizia, insomma, da questo punto di vista. Tremendo. E visto che è un po' che non presentiamo un software, oggi tiriamo fuori invece dal cilindro. Abbiamo deciso di tagliarti questa parte per il momento e di restare in tema di repressione. Infatti, appunto. Scusami, ci siamo capiti con lo sguardo. Allora, vabbè, 11 persone denunciate da un'azione congiunta dalla Guardia di Finanza di Bergamo, coordinata con la Procura di Brescia. E qua l'accento non l'hai cambiato, non l'hai distinto molto bene. No, in realtà erano diversi. Allora, è appunto stata un'operazione in cui sono stati sequestrati dei server che venivano utilizzati per fare del file sharing, ovvero della condivisione di materiale copyrightato su internet. Hanno decine, sequestrato anche decine di PC appartenenti a, appunto, alle persone denunciate. In particolare hanno attaccato una piattaforma di peer-to-peer chiamata Direct Connect, che permette appunto la condivisione di materiale copyrightato. E niente, appunto, di questi giorni questa notizia. Complessivamente sono stati sequestrati 16 personal computer, 27 hard disk rimovibili, circa 1000 CD e DVD masterizzati e decine di migliaia di MP3 e film di recentissima programmazione e illecitamente riprodotti. Da quello che sembra questa notizia ANSA, non si tratta però di persone che facessero questo a scopo di vendere poi il materiale scaricato appunto, cioè appunto di rivenderlo, ma semplicemente di persone che l'avevano scaricato per una fruizione personale. Quindi vedremo come andrà avanti questa storia. E che lo mettevano in condivisione. E lo mettevano in condivisione. Però a titolo gratuito, insomma. Esatto. Senza scopo di lucro monetario o cose di questo tipo, insomma. Denunce su denunce, allora andiamo anche a vederci che cosa succede. Legge sul copyright e il sito YouTube. Esatto, questa notizia era appunto della settimana scorsa, o meglio era uscita proprio il giorno in cui andava la trasmissione. La citiamo comunque per completezza. La Viacom, la gigante dei media statunitense, che al quale si nasconde, che al suo interno proprietaria dei marchi, quella roba lì, Paramount, dilla tu se la sai bene, no? Ha deciso di denunciare YouTube, il famoso sito. Ah, dopo c'è un'altra cosa devo dire. C'è GodTube. Dilla dopo. Allora, appunto, ha deciso di denunciare YouTube e quindi indirettamente Google per la violazione della norma sul diritto di autore. E in particolare vanno a chiedere a Google i soldi che questi avrebbero guadagnato dai link che sono stati pubblicati nelle pagine dei video che sarebbero appunto a contenuto copyrightato, quindi non liberi, che erano appunto presenti su YouTube. E quindi il risarcimento totale chiesto da Viacom nei confronti di Google è di $1 miliardo. Sai, le cifre non sono non bassissime, però vabbè, considerando Google. Esatto, e poi tenuto conto che probabilmente si tratta di soldi che Google ha già intascato dalla stessa Viacom. Appunto dai click visualizzati, penso che... Vabbè. Boh, vedremo come andrà a finire. Dai, adesso te lo facciamo fare il tuo angolo software, Ale. No, c'è un altro che ride ancora. No, E GodTube? GodTube, ecco, esatto. Allora, l'altra volta avevamo parlato di Conservapedia, che era la versione di Wikipedia dei neocon americani, e con tutta la rivisitazione di tutto quelle che sono le parole più scandalose secondo, esatto, questi conservatori. Darwin era un pazzo ubriacone e discendeva da una scimmia e quindi era lui. Stupido. Esatto, solo lui. E niente, oggi leggevo appunto la notizia che è nato GodTube, ovvero sia la versione pastorale e super cattolica di YouTube, dove potete trovare all'interno del sito film porno. No, mai cosa del genere. Troverai invece dei sermoni, delle prediche fatte da predicatori, dei filmati che ti spiegano l'importanza dell'indissolubile trinità della figura divina e quant'altro. Se ne guardate tutti, Marco. No, in realtà no, ho fatto un paio di ricerche, ho cercato sex, la prima voce era Dio è meglio del sesso, ho detto vabbè, cambiamo. Insomma, se non avete proprio niente da fare, volete fare un giro su un sito del genere. Esatto, pure. Come fa Marco tutto il God giorno. GodTube. GodTube. Il tubo di Dio. La tube è la televisione in gergo statunitense. Anche la metropolitana. Quella è in gergo anglosassone. Che è diverso, eh. Allora, Parliamo del appunto l'angolo software. L'angolo software riprende in realtà con un po' di difficoltà, nel senso che poi i software più comuni ve li abbiamo già presentati nel corso di questi due anni. Quindi da adesso in poi presenteremo solo software che non servono più a nessuno. No, software che escono recentemente, che magari non sono ancora completissimi, ma che hanno qualche idea interessante, come questo Fin Feeder, si chiama, è scritto Fin come sottile in inglese, T-H-I-N, e Feeder, F-E-D-E-R. Comunque trovate il link sul nostro sito. Si chiama finfeeder.sourceforge.net o .sf.net. È un programma in Java, quindi trasportabile, multipiattaforma, va su Windows, Linux, eccetera. Permette di leggere gli RSS, è un aggregatore di RSS, ne abbiamo parlato già in altre occasioni. Gli RSS stanno avendo una diffusione sempre maggiore, sempre più diffusa. È una tecnologia che vi permette di avere automaticamente degli aggiornamenti da un sito che è impostato per questo. Quindi, per esempio, vi accorgete subito, potete, che ne so, un articolo di Repubblica. Moltissimi siti di notizie utilizzano questi sistemi appunto per che permettono di tenersi aggiornati. Voi configurate il vostro feed, si chiama, e questo scarica automaticamente i titoli, un po' come se fossero delle mail, e cliccandoci sopra voi vedete l'articolo direttamente, quindi senza navigare il sito. È comodo per seguire appunto diversi siti di informazione o anche moltissimi blog, perché ormai quasi tutte le piattaforme blog, molte di quelle che abbiamo presentato anche noi o che vengono utilizzate come Blogspot, supportano questo tipo di tecnologia, per cui se avete un blog che seguite regolarmente e vi scoccia tutte le volte andare sul sito, oppure sono troppi per poterli navigare, vi scrivete questi feed con questo programmino che ve li fa vedere come elenco, e sono molto più facili da trasportare. Altra cosa interessante è che questo software può stare su una pennina USB, è piuttosto piccolo e leggero, per cui ve lo potete portare in giro e avere sempre i vostri feed aggiornati sulla pennina. Ovunque voi siate. No, in conclusione Marco ci presenta il discorso filosofico del giorno. No, era bello, parliamo di brevetti e di medicinali, ne avevamo già parlato le puntate scorse, ma ve ne parlo con questa storiella divertente. Immaginate di essere al mare, a un certo punto sentite un tizio che sta annegando e grida aiuto, aiuto, annego, annego, e sulla spiaggia c'è un tizio che vende salvagenti, e il tizio che vende salvagenti non dà una mano a quello che sta annegando, e il tizio annega. E allora prendono quello dei salvagenti e lo citano in giudizio e gli dicono: te è bello, perché cazzo, tu hai un sacco di salvagenti e non glieli hai dato al tipo. E questo dice: vabbè, ma io i salvagenti li vendo e quindi non posso andare a regalarli, perché sennò i miei guadagni finiscono. Bene, questa storiella tremenda, che speriamo non debba mai accadere, invece accade tutti i giorni per quanto riguarda le case farmaceutiche e dalla parte del venditore di salvagenti e i malati di AIDS dalla parte di quelli che stanno affogando. Le industrie farmaceutiche dicono: ah, noi abbiamo questo bellissimo medicinale, però noi abbiamo speso un po' di soldi per produrlo e vogliamo guadagnarci un sacco di soldi dalla vendita, per cui noi lo vendiamo a prezzi fuori dalla grazia di Dio elevatissimi, e quindi si inculi anche quel malato di... si può dire inculi in radio? Ormai l'hai detto due volte, quindi... Ok, col malato di AIDS lì sono cavolacci suoi, e quindi poi a morire in pace, perché tanto l'importante sono i nostri guadagni. Bene, questa situazione dei brevetti farmaceutici sta per essere... cioè, l'India è uno dei produttori più grandi di farmaci senza brevetti, e di recente ha apportato delle modifiche alla sua legge sui brevetti, in particolare dicendo che una cosa non può essere brevettata se non ci sono delle vere modifiche e delle vere cose innovative al suo interno, e quindi, data questa legge, ha cominciato a produrre dei farmaci generici, soprattutto per curare l'AIDS, ed è stata denunciata, il governo appunto indiano è stato denunciato da una multinazionale svizzera che appunto invece pretende che l'India smetta di produrre questi medicinali e che modifichi la sua legge sui brevetti. Il verdetto è atteso per aprile e speriamo appunto che l'India possa continuare a produrre a basso costo i suoi farmaci e venderli poi tra l'altro in tutto il mondo come sta facendo adesso. E con quest'ultima chicca si chiude la trasmissione di oggi. Parte la sigla, Barry Gray, Space 99. Complimenti a Marco che all'alba di non so quanti anni fa ha trovato questa canzone, ha deciso di metterla come sigla di Cialtroni nello spazio. Ogni mercoledì alle 12.40 in onda sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, poi in replica sul sito spazio.circolab.net, la nostra email radio@circolab.net, per poterci incontrare ogni domenica pomeriggio al e Circolab anche domani alle... no. Sì, anche domani sera, apertura straordinaria. Apertura straordinaria giovedì sera al Circolab. Dalle 8. Alle? X. Alle X. Per quanto riguarda il Circolab via Fratelli Bandiera, 14 numero 12, se volete iscrivervi ai 14. Corsi. 14. 20, numero 20, diamo i numeri. Vabbè, se basta, volete lasciamo... anche iscriverci, iscrivervi ai nostri corsi, partono il 4 di aprile e se volete contattarci, vabbè, trovate sul sito il modo per contattarci e chiedeteci delle cose che noi ne parliamo in radio a voi. Ciao. Cialtroni nello spazio, ciao!